9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, dedichiamo questa trasmissione di giovedì 20 di gennaio a San Sebastiano. Ve lo ricordate, è il santo della prima corte dei pretoriani, che non muore malgrado le frecce, torna dall'imperatore e poi l'imperatore gli taglia la testa, comunque dicendo: beh, ti sei montato la testa, io se ti dico di ucciderti ti devono uccidere. Ecco, ha una questione che ha un pochino la stessa durezza del martirio di San Sebastiano, ed è la questione femminile. E decido di farlo apposta oggi, non solo perché c'è una coincidenza temporale: ieri c'è stato un convegno a Roma nel quale sono state avanzate delle proposte, le vedremo tra poco, ma perché mi sembra che piuttosto che tromboneggiare e commentare, come è del tutto legittimo e giusto, sulla vicenda che è un po' lo sfondo della cronaca delle notti di Arcore, che agitano la politica, e delle reazioni di Berlusconi ieri, dell'interrogativo che ci siamo posti già per due giorni se siamo alla fine del governo Berlusconi o meno, per quello che è al centro dell'indagine del pubblico ministero Boccassini, non sia invece più utile occuparci del punto di fondo che rivelano, o che meglio dire, ripropongono gli atti giudiziari relativi alla notte di Arcore, e cioè la maniera in cui molti maschi considerano le donne, tanto per essere chiari e andare al punto, e la maniera in cui l'organizzazione concreta della nostra società, del mercato del lavoro, del mercato pubblicitario, del mercato radiotelevisivo, dei media, della comunicazione, propone l'immagine, il ruolo della donna. Ecco, forse vi sembrerà una maniera un po' anni 70 da parte mia, del resto sono nato in un quartiere operaio, mai stato comunista, ma mi occupo di cose concrete da quando sono piccolo. Forse vi sembrerà una maniera un po' strutturalista di vedere la faccenda, però è indubbio che a me l'impressione che ripropongono tutte le vicende in cui alla fine quello che conta delle donne è la carne, la misura del reggiseno, se c'è il culo all'insù o all'ingiù, perdonatemi la crudezza, ma di questo si parla, mi sembra che dicano molto di questa coscienza del genere maschile italiano, del modo di considerare che è sempre così andata e sempre così andrà, e tutto sommato più successo è meglio che abbia chi più lo dice e lo fa apertamente, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo deriva da, come ci dicono tutti gli indicatori comparati della condizione femminile nel nostro paese, da una bella batteria di problemi concreti che continuano a impedire, a ostacolare, a scoraggiare, a disincentivare innanzitutto la partecipazione delle donne al mercato del lavoro italiano, visto che rispetto alla media del 57-58% europeo noi siamo a 12, quasi 13 punti sotto, con il sud che è a quasi 30 punti sotto, e naturalmente minore partecipazione di questa percentuale così ampia al mercato del lavoro significa minore possibilità di reddito autonomo, significa enorme minore produzione di PIL nazionale. Pensate che se raggiungessimo l'obiettivo del 60% significherebbe aver accresciuto il PIL di quasi 8 punti, più di 7 punti di PIL, e tutto questo deriva poi da come funziona concretamente il mercato del lavoro italiano, il welfare italiano, da come si scoraggia la conciliazione dei tempi di lavoro rispetto a quelli familiari. Io vi do solo il dato, questo dato di partenza: rispetto a tutti i paesi OCSE avanzati, l'Italia è quello in cui continua a esserci una doppia discrasia dei tempi di lavoro quotidiano tra uomini e donne. E cioè, nella media dei paesi avanzati, la Germania e i paesi nord europei, la quantità di tempo giornaliero di lavoro censito dall'OCSE è più o meno uguale, dove per tempo di lavoro si intende la somma sia di quello retribuito, quindi per chi presta un lavoro e ha la sua retribuzione, sia quello non retribuito, quindi ciò che si presta praticamente in casa per come cura domestica. Ecco, da questo punto di vista invece l'Italia continua a essere un paese nel quale le donne continuano a lavorare molto molto più degli uomini, e vi fa riflettere questa condizione? No, perché è centrale nel determinare il fatto che, siccome la cura sia del carico familiare, nel senso dei figli, sia quello parentale, anziani, disabili e così via, è quello che spiega esattamente perché sono le donne che lavorano più degli uomini. E naturalmente, oltre a questo doppio divario, poi vi darò le cifre, ma adesso non voglio appesantire troppo questa breve introduzione, c'è naturalmente il fatto che le donne non solo lavorano di più, ma hanno sul totale dei della loro quantità di lavoro quotidiano, la percentuale più bassa di lavoro retribuito rispetto a quella di paesi nord europei, Germania, Francia e Stati Uniti. Ecco, questa condizione significa che bisogna porsi il problema non solo di alcuni interventi decisi per consentire la conciliazione dei tempi di lavoro e per vedere come magari prioritariamente consentire l'accesso al mercato del lavoro alle donne, ma significa anche intervenire su una serie di questioni trasversali che disegnano e determinano la condizione della donna nella nostra società. Ieri c'è stato un convegno organizzato da un'associazione che si chiama Pari o Dispare, di cui è presidente onorario il vicepresidente del Senato Emma Bonino, che ha lanciato una serie di proposte. Noi abbiamo ospiti con noi Emma Bonino e quindi iniziamo da lei perché pochi minuti inizialmente ci spieghi semplicemente almeno le proposte iniziali. Poi su questo sentitele bene e intervenite telefonicamente per dire come la pensate. Buongiorno Emma Bonino. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci sta ascoltando. Allora, che cosa proponete? Beh, innanzitutto diciamo che proponiamo di uscire dal mugugno e dalla scontatezza frustrata e di passare ad un dato di riscossa operosa, diciamo così. Allora, prima questione, appunto, stereotipi, media volgari, rappresentazione a cui lei faceva riferimento. E noi non siamo proibizioniste culturalmente, quindi non vogliamo proibire niente, ma abbiamo lanciato un appello, un manifesto, insomma, alla pubblicità responsabile, che hanno già sottoscritto una serie di multinazionali, e lavoreremo su questo anche perché aderiscano imprese italiane, proprio perché il problema non è proibire, come dire, altre forme di valorizzare tutto quello che invece non viene mai rappresentato, cioè le milioni di donne, tra virgolette, normali, professioniste che lavorano, eccetera, e che non hanno mai diritto di essere rappresentate, perché appunto lo stereotipo sta tra l'angelo del focolare e signorine improbabilmente vestite o svestite per pubblicizzare qualunque cosa. La seconda è un monitoraggio serio perché perlomeno dall'aumento dell'età pensionabile nel pubblico si ricavano nei prossimi anni 1.400.000.000, dico bene, ripeto, 1.400.000.000 di euro, anche solo dall'equiparazione e l'aumento dell'età pensionabile delle donne nel settore pubblico, le iniziative perché questi fondi vengano utilizzati per realizzare o iniziare a realizzare tutti quei servizi cui lei faceva cenno, che oggi non ci sono, per cui tutte le attività di cura dei bambini, degli anziani, degli anziani malati, eccetera, eccetera, ricadono, si dice ipocritamente, sulle spalle della famiglia, in realtà sulla parte femminile della famiglia. E quindi l'avvio finalmente di una politica di condivisione, non so, chiamiamola come vogliamo, di conciliazione, per permettere l'accesso delle donne al mercato del lavoro. E la terza è l'idea di discutere se l'Italia abbia bisogno, nella situazione patetica in cui si trova, di una autorità con grandi poteri contro le discriminazioni di genere. Noi pensiamo di sì, però abbiamo sottoposto questa idea, che esiste peraltro negli altri paesi, richiesta dall'Europa come organismo terzo, eccetera, eccetera, ma non vogliamo authority che poi non abbiano poteri, e francamente non voglio più neppure proposte simboliche o cose di questo tipo, e quindi abbiamo avanzato intanto queste tre proposte, che non hanno nessuna pretesa di essere esaustive. Ieri nel dibattito sono venute fuori altre idee che guarderemo con molta attenzione, ivi compresa la valutazione delle emigrate o delle immigrate, e che poi sono quelle che nelle nostre case assolvono molti dei servizi più responsabili di cura e di amore. E quindi, insomma, a me è sembrato anche una presenza, un convegno piuttosto determinato, insomma, pochissimo mugugnante, neanche rivendicativo, insomma, però con grande voglia di fare. Spero appunto che ce la faremo. Nel mondo delle imprese, sì, l'idea ovviamente di meccanismi un po' automatici fa un po' storcere la bocca, però poniamoci il problema. Io faccio sempre questo esempio quando gli imprenditori mi obiettano alla necessità di discontinuità programmatiche, per così dire, per sì, promuovere la parte leggera. Mi dicono, però mica è colpa nostra se qua il congedo parentale lo abbiamo introdotto nel nostro ordinamento da un po' di anni, ma in definitiva i lavoratori maschi non poco più del 5%, il 6% ne fanno uso, a parte il fatto che il nostro congedo parentale è di 5 mesi, in Gran Bretagna è di 10 mesi. Comunque, al di là di questo, io dico sempre sì. Io non dico che deve essere la legge o il contratto a obbligare i maschi ad avvalersene, però è vero che non c'è l'ombra di un meccanismo incentivante, e quindi se uno vuole promuoverla sta consapevolezza e vuole equilibrare il fatto che devono essere i papà maschi e non solo le mamme a far tutto, ci dovrà essere bisogno di una discontinuità, di un meccanismo incentivante, non voglio dire di un obbligo. Secondo lei come si fa? Per esempio in altri guardando altri paesi, perché poi noi alla fine abbiamo sempre questa idea che ci dobbiamo inventare tutto da soli, in realtà se guardiamo come sono riusciti gli altri paesi, per esempio da noi, no? chi sta a casa non è incentivato dal punto di vista dello stipendio, di tutta evidenza, e quindi poiché c'è una decurtazione alla fine dello stipendio, obiettivamente gli uomini guadagnando di più, uno si fa due conti e pensa che è meglio se sta a casa lei. Ora, questo per esempio potrebbe essere superato. Altri paesi, ma non dico quelli nordici, sto parlando della Spagna, quindi di nostra cultura, tra virgolette, se così la vogliamo chiamare, hanno inventato invece altri meccanismi di incentivazione di vario tipo, dipende anche dai settori di lavoro evidentemente. Infatti io sono d'accordo con lei che un standard uguale per tutti è difficile poi farlo applicare in aziende piccole, in aziende medie, in aziende grandi, nell'amministrazione pubblica poi ci si può organizzare, nell'azienda piccola evidentemente no. Però credo ad esempio una cosa che pensavamo di fare come pari o dispari è uno studio comparato dei meccanismi di incentivazione di congedi parentali nei paesi in cui hanno funzionato meglio, proprio per riuscire a partire dalle esperienze altrui e non inventarci sempre l'acqua tiepida. Ora, da aprile per esempio di quest'anno i padri inglesi possono stare a casa fino a 10 mesi dopo la nascita del figlio, e il grande dibattito che c'era sui quotidiani britannici in questi giorni era se doveva essere lo Stato a obbligarli, lo Stato nella patria del liberalismo, voglio dire. Le discontinuità, se vogliamo ottenere effetti su una deriva di lungo periodo in cui c'è questa cristallizzazione di incapacità degli uomini di capire che capitale sociale in più, lavoro in più, possibilità in più, eccetera eccetera, bisogna secondo me farli anche con misure magari a tempo, ma che abbiano un obiettivo quantificato da raggiungere. Io la penso così. Io non sono mai stato per le quote, però nel vedere come in Norvegia con una legge a tempo si è detto: signori, entro X, visto che la percentuale è troppo bassa delle donne nei consigli di amministrazione, deve crescere almeno al 40%, poi la norma decade. Nel frattempo però l'effetto si è visto. Lei che pensa di norme a tempo con questo obiettivo, Bonino? La mia paura è che le norme a tempo diventino nel nostro paese permanenti, perché è sempre stato così, tutte le leggi d'emergenza o emergenziali poi ce le siamo tenute sostanzialmente, insomma. E quindi devo dire che in realtà poi alla fine molte amiche anche accettano questa idea delle quote più per sfinimento che per altro, per stanchezza, diciamo. Io invece rimango piuttosto contraria, perché non mi piace prevedere una società a quote, tot immigrati, tot donne, tot bionde, tot cose, e anche perché non sempre la quota prevede il merito, anzi spesso la quota va a discapito del merito. Se penso ad esempio alle quote che si vogliono proporre delle elette o delle liste elettorali, a me la sola idea di poi pensare che chi mette in lista le persone donne, basta che guardiamo, sono 5 o 6 segretari di partito maschi, per esempio, già mi viene mi vengono i brividi. Mentre invece, certo, come battaglia politica nei partiti politici, riuscire ad avere all'uscita dei congressi e quindi candidandosi e facendo una battaglia politica una presenza significativa o paritaria negli organismi dirigenti dei partiti, questo è un altro percorso. Quindi, per esempio, possiamo approfondire un po' per capire quali sono i meccanismi che possono portare ad un'incentivazione che non sia però calato, diciamo, come quota dall'alto, per una ragione contestuale nel nostro paese, nel settore che io conosco meglio, che è quello politico, ahimè. Eh beh, certo, però io devo dire che nel settore politico una legge a tempo che dicesse che per 10 anni le responsabilità istituzionali siano affidate a sole donne, a prescindere dalle quote poi di rappresentanza, io ci metterei la firma, devo ammettere. Non cominciamo mai... dai partiti, per esempio, per essere riconosciuto come partito, da noi non per legge non bisogna essere razzisti, benissimo, bisogna anche non essere discriminatori. Credo che questa è una grandissima battaglia che le donne impegnate in politica devono fare nelle organizzazioni dei loro partiti, perché solo aspettare che il segretario, in base ad una legge, quando deve fare la lista, io già so dove andiamo a parare, tant'è che io ricordo perfettamente nel 94 avevamo le quote e io ricordo come uno dei giorni più umilianti della mia vita l'apertura del Parlamento del 94, che si è aperta con le dimissioni di una serie di donne che avevano accettato di essere in lista solo per l'ottemperanza alle quote. E devo dire che è stato uno dei momenti, come dire, più umilianti. Il trionfo dell'ipocrisia maschile anche, anche di fronte alla promozione delle norme di genere. Innanzi, abbiamo alcune telefonate, anzi no, si è aggiunto, perdonate, prima della telefonata si è aggiunto perché avrà pochissimi minuti, qui sentiamo la voce di un'impresa al femminile, Luisa Todini, che è presidente della Todini Costruzione Generale e presidente anche della Federazione Industria Europea delle Costruzioni. A Luisa Todini chiedo non solo la testimonianza generale, quanto pesa da donna, no, voglio sapere da lei sulle politiche attive come quelle di cui si è discusso ieri a questo convegno e che adesso Emma Bonino ci ha illustrato, sulle misure a tempo di discontinuità, visto che poi i maschi dicono ma nel nostro paese la presa non la mollano e poi si vede che idea hanno in realtà delle donne. Come la pensa un'imprenditrice come Luisa Todini sulla necessità di norme di discontinuità programmatica? Bisogna insistere? Sì, bisogna obbligare i maschi altrimenti si vergognino? Qual è il punto attraverso cui possiamo scrostarla questa posizione maschile? Luisa Todini. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitata, ospitare la voce di costruttori e di un settore quindi che è tendenzialmente maschile. Io raccontavo ieri che all'interno della FIC, che è la Federazione dei Costruttori che esiste dal 1905, per la prima volta io entrai nel board nel 2004 e per la prima volta c'è un presidente donna, quindi in ogni caso facciamo onore all'Italia che in qualche modo è riuscita a portare un presidente donna in un settore assolutamente maschile. Per il resto, sì, però Luisa, senti, faremo onore all'Italia ma faremo onore a te, perché se non fossi tu non ci sarebbe il presidente donna, lo dico io, punto, ecco. Ti ringrazio, però in qualche modo sono felice di rappresentare l'Italia, come quando ero al Parlamento europeo c'erano ben poche italiane a rappresentarlo. Detto questo, ieri si diceva che anche io stessa notavo, da tantissimi anni mi capita di partecipare a convegni di questo tipo e sembra sempre che ripetiamo le stesse cose, ma non perché non siamo originali, perché purtroppo le cose non sono cambiate, in alcuni casi sono anche peggiorate, in alcuni casi è come se si volesse mettere veramente da parte questo tipo di problematica. Ma concretamente che cosa si può fare e soprattutto che cosa ha fatto l'azienda che ora presento? Ha aperto un asilo nido con grandissima difficoltà. Io raccontavo che pur avendo aperto un asilo nido, poi se non c'è una mobilità confacente nelle grandi città, praticamente l'intervento del privato è inutile, perché alle 6 del mattino non si può mettere un bambino in metropolitana di pochi mesi in metropolitana per 2 ore. Incentivare il part-time, introdurre sistemi di incentivazione per l'assunzione in rosa, minor tassazione sul lavoro femminile, cioè tutte queste cose. Non è che qualcuno tanto sbuffa, dice vabbè sono sempre le solite cose, certo sempre le solite cose perché non si riesce a fare. Ora ieri Linda Lanzillotta diceva dobbiamo avere ministri donna ma nelle chiavi economiche, forse in Francia dove c'è Christine Lagarde sarà questo uno dei motivi per cui poi tante cose si riescono a fare, perché io do atto, non so, a Maria Stella Gelmini, a Mara Carfagna, a tutti i ministri anche che hanno preceduto questo governo al femminile di aver fatto molto, ma quando poi c'è il blocco ricco all'economia per poter in qualche modo fare e dare e quindi fare finanziamenti soprattutto che possono favorire le assunzioni in rosa, è chiaro che è inutile da questo punto di vista. Oh, questa riflessione di Luisa Todini, la realtà è che in un ordinamento in cui tutto il rubinetto, tutta l'acqua passa per un rubinetto e quindi chi ha la chiave di quel rubinetto è in grado di fare sì o no a qualunque proposta, è una delle riflessioni centrali, perché poi si possono promuovere tutte le norme di discontinuità sull'accesso al lavoro sottostante, ma in realtà se poi per finanziare le misure c'è un massimo di necessità, ci vogliono gli strumenti, quindi il problema è candidare un ministro dell'economia nel prossimo futuro. Ora andiamo in pubblicità, io ringrazio Luisa Todini che ci può dare solo pochi minuti e quindi ci saluta. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando delle proposte che ci ha illustrato Emma Bonino, ha illustrato ieri in un convegno dell'associazione Pari o Dispare per promuovere la questione del genere femminile, per aumentare la tutela e aumentare la possibilità di far partecipare le donne al mercato del lavoro. Vi devo dire che come sempre quando una volta ogni tot settimane faccio una trasmissione deliberatamente dalla parte delle donne su proposte concrete, ogni volta la reazione degli ascoltatori con gli SMS conferma, ne faccio una lettura personale senza mancare di rispetto a nessuno, quello che secondo me è il dato che sistematicamente viene riproposto quando si affronta con un tono dichiaratamente pro femminile questioni come l'accesso al mercato del lavoro. Moltissimi degli ascoltatori dicono: cosa stai dicendo? Sono tutte stupidaggini. Che cosa vogliamo fare? Diamo lo stipendio alle casalinghe allora, ma non bisogna assolutamente promuovere delle norme che consentano prioritariamente alle donne l'accesso al mercato del lavoro. Cos'è questa storia dei tempi di conciliazione? Se i padri vogliono possono prenderselo il tempo, e siccome però poi diminuisce dopo pochissimi mesi di una percentuale troppo elevata la retribuzione, e naturalmente i maschi devono lavorare perché poi su di loro ricade il dovere rispetto alle donne che se lo possono permettere di più. Io sono convinto che visioni come queste, ci sono tantissimi SMS ispirati con maggior durezza di quanto non ve l'abbia sintetizzati a questa convinzione, rappresentino esattamente il problema di genere che nella coscienza maschile, largamente maggioritaria nel nostro paese, è la vera radice del perché noi alla fine non consentiamo alle donne di partecipare al mercato del lavoro. E perché la pensiamo così noi maschi, questo è il problema. Vi potrà sembrare che sono un po' abrasivo, ma io sono convinto che se in tutti gli ambienti di lavoro quando avevo neanche 17 anni a oggi, in tutte le aziende in cui ho lavorato, ho sempre dovuto constatare che c'è una schiacciante, talvolta sfacciata e talvolta anche intollerabile forma di espressione di mobbing maschile sulle donne, vorrà dire che il problema siamo noi maschi, scusate. Poi a molti di voi dice che non bisogna generalizzare, molti aggiungono anche che poi ci sono le torme di ragazzine che vogliono per soldi e per successo andare a fare le notti di hardcore, vuol dire che sono le donne che non ragionano bene, hanno la testa bacata e non gli uomini. Penso che questa sia una maniera di rappresentare la cosa un po' impropria, se mi consentite. Lo dico provocatoriamente, in maniera deliberata, perché secondo me il giorno che noi litigheremo tra maschi accettando l'idea di pensarla, che molti di voi la pensano un po' in maniera intollerabile, sarà un passo avanti, perché forse quella è una delle condizioni per fare almeno alcune delle cose come quelle che ci ha illustrato in Mabolino. Al di là che poi nel merito si può fare meglio, si può fare, però bisogna farne qualcuna, mentre qua si è fatto solo le finte quote in politica nelle liste che poi sono finite come sono finite, cioè come ci ricordava Emma Bonino. Mettiamo alcune telefonate in onda e vediamo poi di procedere con ospiti e commenti. Loredana che ci chiama da Roma, come la pensa Loredana? Sì, buongiorno, grazie davvero per questa trasmissione, per questa possibilità di intervento. Dunque, io mi occupo da tanti anni di politiche di genere e direi che ci sono alcuni punti proprio chiave che sono stati toccati in questa trasmissione. Intanto, come diceva lei, c'è un conflitto di genere che non va ignorato. Purtroppo c'è e bisogna prenderne atto per trovare degli strumenti per contrastarlo, insomma, non per demonizzarlo soltanto, ma comunque per affrontarlo apertamente e senza false ipocrisie. E il discorso delle misure a tempo, bene, queste misure a tempo sono state comunque cassate in Italia, lo sappiamo, ma perché devono essere misure a tempo? In fin dei conti vanno a determinare un rispetto per il genere sottorappresentato, quindi potrebbe essere in momenti storici diversi uno strumento comunque di giustizia e di equità nella società, no? Quindi il fatto di essere norme a tempo secondo me va a coprire una sorta di diffidenza e di paura per qualcuno che dovrebbe approvarle queste norme a tempo, perché non mi sembrano affatto pericolose dal punto di vista dell'equilibrio, no? Economico e sociale. Lei sa che ci sarebbero legioni di costituzionalisti mobilitati da associazioni pronti a sostenere che sono in violazione dell'articolo 2 e 3 della Costituzione, dell'uguaglianza, e si sbagliano perché vanno a determinare invece un concetto di equità e di giustizia, perché si parla di un genere comunque sottorappresentato e discriminato, quindi sono buone pratiche che vanno a ripristinare un equilibrio, che è quello che la Costituzione vuole, perché dovrebbe dare pari opportunità a tutti la nostra Costituzione, no? In ambito economico, politico, sociale. Laddove ci sono dei vizi, evidentemente vanno corretti con delle norme di legge, secondo me, perché la cultura per cambiare, diciamo, da sé richiede tempi impossibili rispetto ai bisogni che ci sono, no, attuali. Quindi bisogna comunque accompagnare questo cambiamento culturale con delle norme che arrivino dall'alto, da menti illuminate, perché guardate, la classe politica, il fatto che il welfare sia caricato sulle spalle delle donne per grandissima parte, vuol dire che c'è qualcuno che non sa gestire il welfare del paese, o meglio, forse qualcuno che preferisce non saperlo, perché lo preferisce gestire in un certo modo. Grazie Loredana, e sì quindi agli interventi normativi. Abbiamo con noi ospite adesso Giorgio Simonelli. Giorgio Simonelli è docente di giornalismo radiofonico e televisivo e storia della televisione alla Cattolica di Milano, ed è insomma tra le presenze fisse di una strepitosa, la più strepitosa trasmissione televisiva da molti anni di analisi e di autoanalisi della televisione italiana. E a Giorgio Simonelli vogliamo chiedere, visto che, come avete sentito all'inizio della trasmissione, Emma Bonino ci ha ricordato, tra le proposte di questa associazione Pari o Dispari c'è un osservatorio permanente per il ruolo e la presenza femminile in televisione, e anche nel manifesto che viene lanciato un appello sottoscritto da molte aziende contro l'utilizzo della figura femminile e del corpo femminile di un certo tipo in pubblicità, chiedo al professor Simonelli, la classica cosa che ci testimoniano tutti gli amici stranieri quando vengono in Italia, accendono, guardano un po' la televisione e dicono: certo, vivete in un strano paese, perché qua come vengono proposte le donne a qualunque ora, in qualunque fiction o in qualunque produzione televisiva italiana, rispetto a non dico paesi islamici di provenienza, ma gli Stati Uniti, la Germania, eccetera. Gli amici ci dicono: beh, avete una strana maniera, visto quello che fate vedere. A che cosa si deve? E si è molto accentuata in questi anni? È sempre stato così? Quando c'è stata questa rottura di continuità sul ruolo del corpo femminile nella televisione italiana, nella comunicazione d'immagine italiana, professor Simonelli? Intanto buongiorno e grazie per i complimenti per la mia trasmissione. Dunque, questa cosa è una cosa abbastanza complicata, su cui credo non si debba fare così ad ogni erba un fascio, come si suol dire. È accaduto sicuramente una grande e negativa trasformazione che riguarda l'esibizione del corpo femminile. Cominciamo a premettere che, insomma, un'esibizione del corpo femminile, diciamo, di tipo erotico è sempre esistito nel mondo dell'arte e dello spettacolo, questo lo sanno tutti. È accaduto però una cosa grave sicuramente nelle ultime stagioni, diciamo a partire dagli anni 80-90, che sono venute a cadere tutte le barriere del pudore, diciamo, ecco, no? Perché si fa sempre la televisione, si dice com'era elegante, com'era, so, le gemelle Kessler o Raffaella Carrà. No, ma la questione è questa. Beh, prendiamola per le corna. È stata la televisione di Silvio Berlusconi quella, come sostengono molti, che ha dato al ruolo, al corpo femminile, un impatto, un cambio di marcia rispetto appunto alla vecchia televisione bianco e nero con i mutandoni? Sì, è o molto no? Chiaro, questo è molto chiaro. È stata la televisione privata che è nata non nelle mani di Silvio Berlusconi, e non dobbiamo dimenticare che una delle trasmissioni più famose che hanno spinto in questa direzione si chiamava Colpo Grosso, ed era il famoso spogliarello Casereccio, che non era ancora di Silvio Berlusconi. Che cosa è accaduto? È accaduto che questo tipo di televisione, che era la televisione locale, commerciale, ma di piccolo cabotaggio, è finita tutta nelle mani di Silvio Berlusconi. Un esempio, no? È quello degli acquisti di televisioni che erano di altre proprietà, che Silvio Berlusconi ha realizzato negli anni 80, e sicuramente ha portato a casa insieme alle emittenti anche un certo stile di queste emittenti. In questo stile c'era anche l'esibizione un po' volgarotta del corpo femminile, che è diventato patrimonio anche della televisione di Silvio Berlusconi, a cui poi si è accodata anche la televisione pubblica preoccupata di perdere ascolti. questo non è nata nelle mani di Silvio Berlusconi, anche se Silvio Berlusconi, come la famosa intervista con Montanelli rivela, insomma, questo tipo di esibizione del corpo femminile è sempre piaciuto. Però la storia della televisione italiana è un po' più complicata, tutta è nata nelle piccole emittenti locali che, non sapendo che pesci pigliare, come opporsi al monopolio all'epoca della RAI, tentavano questa strada dell'esibizione del corpo femminile in tarda serata, facendo di questa esibizione un po' la loro bandiera, la loro diversità, la loro identità. Quando tutto questo comparto è finito nel network che all'epoca si chiamava Fininvest, è successo che questo è diventato un patrimonio nazionale e non più soltanto locale. Sono stato chiaro su questo? Chiarissimo, chiarissimo. Lei crede alla necessità e soprattutto all'efficacia di misure che possano, tramite osservatori permanenti? Il problema è come dotarle di sanzioni, perché io vedo che per esempio l'autorità garante che vigila sulla pubblicità nel nostro paese è praticamente, non rarissimo, capita ogni morte di papa davvero che intervenga su un messaggio, su uno spot pubblicitario, su una campagna pubblicitaria, indicando il corpo femminile che straborda quando non ha alcuna attinenza, secondo me, spessissimo con i prodotti, con lo stile, eccetera, eccetera. E ripeto, non si tratta di fare gli islamici, si tratta però di dire in Italia c'è troppo. L'autorità non lo fa. Lei crede che osservatori permanenti, in qualche misura sanzioni nuove, possano su questo, sul ruolo più rispettoso dell'immagine femminile, del corpo femminile in televisione e nella comunicazione, fare qualcosa? Sì, credo che possano fare poco, però possono fare qualcosa, e poi bisogna vedere come agiscono questi organismi, perché poi in realtà io vedo che molto spesso gli interventi che già ci sono, no, dei comitati vari, hanno un limite abbastanza forte. Io dico sempre che vedono la pagliuzza e non la trave, per usare una metafora abbastanza famosa. In che senso? Nel senso che si concentrano su singoli episodi che sono clamorosi, a volte però prendono poi anche lucciole per lanterne, però si concentrano sui singoli episodi, come inevitabilmente succede nell'ambito della giurisprudenza, e non vedono però il problema generale, perché il problema è un problema generale, un problema di concezione, di uso del corpo della donna. Su quello non credo che organismi di controllo possano agire efficacemente. Adesso faccio un discorso, se vogliamo, anche un po' retorico, però insomma credo che finché non si cambia la mentalità, la cultura generale, diciamo la cultura televisiva italiana, lei ricordava che spesso gli osservatori stranieri si scandalizzano di queste cose. Allora, perché in paesi, come dire, liberali, di antica tradizione, come i paesi del nord Europa, queste cose non accadono o accadono in misura molto minore? Non perché ci sono organismi di controllo, ma perché il clima culturale generale televisivo è diverso. Perché i maschi al potere sono diversi, se posso dire la brutale verità come la penso io. Non so se lei è d'accordo su questa brutale verità, lei come la direbbe invece? Direi che intanto che forse in questi paesi, come sappiamo, insomma, ci sono anche molte più donne al potere, no? Visto che ci sono alcuni paesi in cui c'è un consiglio dei ministri di uno di questi paesi che ha prevalenza femminile. E come no? Ecco, e poi c'è evidentemente una storia e c'è un'idea di televisione che è diversa, perché in questi paesi la televisione pubblica fa la televisione pubblica, magari è minoritaria, ma fa la televisione pubblica. In questi paesi non c'è una ossessione televisiva così forte come c'è in Italia, e quindi insomma tutte le cose sono andate in una direzione, come dire, un pochettino più ragionevole e meno isterica. È meno isterica, è meno caricata di significati impropri, perché il nostro sistema televisivo è praticamente... Anche la pornografia poi fa parte dell'isterismo, è una manifestazione dell'isterismo. Ah, professor Simonelli ci ha dato questa ultima sferzata toccando nel profondo uno dei consumi di massa più diffusi nella società italiana. La pornografia ha a che fare con l'isterismo. Grazie al professor Simonelli, ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, siamo partiti dalle proposte avanzate ieri dall'associazione Pari o Dispare, il presidente onorario Emma Bonino ce l'ha illustrate all'inizio. Avevo sentito la reazione di una donna imprenditrice di successo e presidente della Federazione Europea dei Costruttori, Luisa Todini. Abbiamo sentito l'opinione del professor Giorgio Simonelli, che insegna storia della televisione alla Cattolica di Milano, sul fatto del come e del perché nel nostro sistema televisivo di comunicazione ruolo e corpo femminile siano trattati, oimè, con molto maggior disprezzo prezzo e facilità rispetto alla media dei paesi occidentali. È una questione di minor isteria del sistema televisivo? Sì, anche, ma è una questione di come sono fatti nella loro testa gli uomini, che poi determinano gli standard delle comunicazioni, degli spot, delle campagne, l'utilizzo per ora e ora di format e il ruolo che hanno conduttori, conduttrici, presenza femminile, centimetri quadrati di pelle. E ripeto, non lo fa uno che è sostenitore di alcuna visione integralista o fideistica, lo fa uno che è semplicemente convinto che uomini e donne devono avere un rispetto di sé come fondamentale religione umanitaria di appartenenza e senso nella vita in questo pianeta, perché altrimenti cadiamo tutti nell'idea di poterci comprare e mancare di rispetto innanzitutto a noi stessi prima che agli altri. Vicenda che vi sembrerà secondaria nelle notti di Arcole, ma sembra, a me sembra invece la questione centrale, che non ha poi a che vedere con il rivo penale, con i procuratori, si deve dimettere o meno, ma c'è una questione di fondo che ha a che vedere con l'antropologia, che ha a che vedere con come si vive, con rispetto di sé, e questo per me sono le categorie fondanti anche della politica. Sbaglierò, ma io la vedo così. Letizia, dalla provincia di Milano, sulle proposte di cui stiamo parlando, sulla necessità di intervenire con misure cogenti di discontinuità per equilibrare a favore delle donne, come la pensi? Allora, io sono molto onorata di poter parlare con lei, la seguo ogni giorno. Allora, io ho apprezzato molto l'intervento dell'imprenditrice, nel senso che noi donne abbiamo bisogno di cose pratiche, asilini di cofunzionano, dopo scuola validi, in modo da poter conciliare tutte le numerose attività che dobbiamo svolgere durante la giornata. Secondo punto, gli uomini hanno paura di noi, ci mettono i bastoni fra le ruote e soprattutto hanno paura della nostra intelligenza, della nostra marcia in più, però hanno terribilmente paura di noi e ci usano, e noi siamo stupide alcune volte a farci usare. Terzo punto, Letizia, posso dirle che su questo punto, nella mia esperienza, la minor percentuale di donne che approfittano dei piaceri sessuali nelle aziende in cui ho sempre lavorato, dal mio punto di vista, ha sempre fatto pagare la maggioranza delle colleghe, perché quando c'è chi ne approfitta così, le altre stanno di solito zitte oppure se ne vanno sbattendo la porta. E volevo solo dirlo perché è la mia esperienza personale a conferma di quello che stava dicendo. No, sì, questo è giusto, però un'altra cosa che dicevo, noi non dobbiamo combattere con voi, noi dobbiamo collaborare con voi, e voi fate fatica a collaborare con noi, perché noi, io vedo anche nella mia situazione personale, cioè noi siamo più veloci, abbiamo imparato a fare 3500 cose nello stesso momento, e voi questo qua vi spaventa, e allora anziché collaborare ci tarpate le ali, però è come escludere l'altra metà del cielo, cioè se si imparasse veramente a collaborare fra uomo e donna, fra Stato e cittadini, le cose sarebbero migliori. Ah certo, Letizia, però non esageriamo, perché tra Stato e cittadino sì, cooperare è bene, ma qui lo Stato è ladro rispetto a ciò che noi facciamo, quindi non pensiamo che si possa tornare al giardino dell'Eden, insomma. Comunque, grazie Letizia. Sentiamo David che ci chiama da Bologna. Prego David. Pronto? Dica Davide, in onda. Ah Sandro, io volevo solamente dire che sono dei pochi che ha preso il congedo parentale. Oh, come mai? Obbligato dalla compagna oppure perché sulla via di Damasco? Per necessità, non avendo i nonni, quindi, e perché poi mi piaceva anche stare vicino ai miei figli. Volevo solamente dire 30 giorni, criticato da tutti, prima, durante e dopo. Perché? Criticato con quali argomenti? Criticato con quali argomenti? Come? Criticato con quali argomenti? Ma soprattutto da donne, ci tenevo a dirlo, sia giovani che anziani con figli, perché non serve a niente, deve starci comodo, la donna a casa, punto, questa è la motivazione. Quindi ci tenevo che lo dicessi, perché molti degli sms dicono, tu caro Giannino ti vuoi rinverginare facendoti amico delle donne, ma in realtà dimentichi che se gli uomini la pensano così è perché sono cresciuti dalle donne, sono le donne che hanno l'aspetto preminente nella formazione dei luoghi comuni culturali su chi deve esercitare la potestà parentale, quindi se sono pochi i maschi che prendono il congedo è perché le donne vogliono i figli tutti per loro. Tu ci dici che è così? Ma io dico che non tanto mia moglie che era contenta, io parlo del colleghe di lavoro, neanche quindi superiori o che potevano magari avere interessi, anche persone che non avevano l'interesse perché non lo concepivano come una cosa giusta da fare, ma era la donna che doveva stare a casa, detto da madri con due figli. Però grazie all'esperienza di Davide, io ripeto, la cosa di fondo è che bisognerebbe allungare il congedo, graduare diversamente la perdita di salario che è prevista. Io sono dell'idea che nei contratti aziendali, parti sociali e imprese devono incentivare di più il raggiungimento di percentuali più elevate da parte dei padri, dei maschi garanzie del congedo parentale. Questa cosa non dico che si debba fare obbligatoria per legge, si può fare con la contrattazione aziendale. Se i sindacati sono furbi devono chiederlo e le imprese devono accettare di innalzare la quota del congedo parentale maschile come un obiettivo di promozione di una diffusione di capitale sociale maggiore. Questo è il mio punto di fondo. Paolo da Vercelli, sentiamo come la pensa Paolo. Buongiorno, una piccola premessa Giannino. Intanto volevo ringraziare per il lavoro che fa lei tutti i giorni perché fa il bene del nostro paese. Andiamo al punto, su. Allora, io volevo dire che però bisogna essere anche pragmatici e obiettivi. Lei è una persona pragmatica, mi darà conto che nell'industria pesante, in certe lavorazioni, l'impiego delle donne è obiettivamente difficile. Vabbè, ma non stiamo parlando di quello però, della miniera, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando della generalità di impieghi amministrativi, ma anche nella manifattura, aperti alle donne, ma dove le donne in media fanno di più, guadagnano meno e non fanno carriera, questo è il punto. Questo oggettivamente è vero, però c'è anche da tenere conto dei numeri dove effettivamente c'è una vastità di impieghi, dove effettivamente è difficile conciliare il contributo che possono dare sicuramente le donne a quella che poi è l'attività sostenuta durante la fase di lavoro. Io mi rendo conto, nella movimentazione di forniture e magazzini, dove è ancora per esempio richiesto, malgrado i carrelli naturalmente e l'automazione, un notevolissimo dispiego di fatica fisica, è chiaro che stiamo parlando. Però nella generalità del lavoro italiano, quando non ci sono questi tipi di qualifiche e mansioni, c'è un problema comunque vastissimo. Marco da Bologna, chiudiamo al volo perché siamo agli ultimi secondi. Marco. Sì, buongiorno Giannino, io niente, ripeto ciò che lei poi ha già anticipato su quello che è il congedo parentale, nel senso che in Nord Europa loro riescono a sapere, questa è cultura vera, nel senso conoscenza, che avendo il papà o la mamma vicini al bambino per ad esempio il primo anno di vita, c'è in realtà una minor perdita di giornate di lavoro. Esattamente, perché bisogna abbandonare l'idea che i figli siano più numerosi e crescano meglio nelle società in cui le donne lavorano meno e stanno con loro. In Francia, in Germania e in Nord Europa le donne lavorano di più, il tasso di fecondità è migliore e il tasso di scolarizzazione di capitale umano dei figli è più elevato del nostro. È l'esatto opposto, sono i maschi che vogliono approfittarne che contrabbandano queste palle su qual è il ruolo delle donne a casa. Comunque questa è la mia visione un po' battagliera, perché sono convinto, non avremmo le cronache di hardcore se non avessimo una società scandalosamente impregnata di pregiudizio erotico, sessuale, maniacale dei maschi sulle donne. Punto, fine della trasmissione di oggi, appuntamento a domani, linea al Giornale Radio.